Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di due libri editi da Rubettino che hanno un filo comune, che li lega. Sono libri dedicati alla realtà italiana sotto il profilo degli ordini professionali, ma sotto il profilo delle liberalizzazioni, della competitività del mercato. I due libri sono Zavorre d'Italia di Antonio Catricalà, il presidente delle Authority Antitrust, e Il Cap di Riccardo Cappello. Avvocato Cappello, buonasera. Buonasera. Avvocato Cappello è con noi, ha scritto questo libro, Il Cappio, perché gli ordini professionali soffocano l'economia italiana. Ma inizierei parlando del libro di Catricalà, Zavorre d'Italia, un libro in cui il presidente dell'autorità antitrust racconta il suo impegno, l'impegno di questi anni, presidente infatti dal 2005, nel cercare, qualche volta senza troppi risultati, e lo ammette, di tagliare un po' i privilegi che hanno le corporazioni, gli ordini professionali, ma anche sistemi economici come quello del commercio, come quello legato per esempio alle professioni in senso più vasto. Ecco, Catricalà in questo racconto, un racconto che è fatto quasi a livello di divulgazione scolastica, cerca di far capire come mai sarebbe meglio un mercato libero, un mercato che potesse essere competitivo in tutti i suoi aspetti, quindi nella logica di fondo. Un mercato libero potrebbe portare a una crescita maggiore. La Confindustria, per esempio, ha fatto un'analisi, una prospettiva, e Catricalà la cita in fondo al volume, secondo cui se si riuscisse a liberare il mercato si potrebbero avere dei costi inferiori per i cittadini e un incremento addirittura fino al 30% in 10 anni se si intervenisse in 4 settori, come la riduzione della burocrazia, un aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione, un potenziamento delle infrastrutture e un allineamento del capitale umano verso gli altri paesi con mercati più aperti. Ecco, questo libro di Catricalà è in fondo aperto da una citazione di von Hayek: la competizione è il terrore di tutti, i conservatori di destra, di centro e di sinistra. Uno dei tratti fondamentali dell'atteggiamento conservatore è il timore del cambiamento. Ecco, un timore del cambiamento che non appartiene a Riccardo Cappello, che con questo Il Cappio parla nella maniera specifica dell'ordine professionale degli avvocati, ma complessivamente di tutti gli ordini professionali. Ecco, perché c'è questo timore del cambiamento, avvocato Cappello? Perché si tratta di una finta lotta fra destra e sinistra che praticamente lottano quando si sono finite le elezioni, però per mantenere il gruppo di comando sempre al potere non fanno altro che bloccare il sistema. Infatti, se lei vede l'età delle persone che rappresentano il potere d'Italia, si rende conto quanto sia difficoltoso il cambiamento. Secondo me non esiste né destra né sinistra, ma c'è un meccanismo che si è creato con la fusione del corporativismo fascista e il collettivismo comunista. Praticamente da questo è nato un mostro che condanna tutti a un'appartenenza, per cui la lotta fra appartenenti blocca il sistema. Quindi fa comodo, impedisce ai giovani di farsi strada, perché vengono avanti solo per cooptazione, vengono eletti, scelti dall'alto e legittimati dal basso. Gli ordini professionali sono un esempio di questa logica chiusa, di questa logica di un sistema che è autoreferenziale e che non cerca appunto la competizione. Certamente non cerca la competizione perché blocca il sistema, perché praticamente gli ordini della politica si mettono d'accordo, gli ordini controllano, canalizzano il consenso, la politica controlla gli ordini attraverso l'arma legislativa sempre pronta, e quindi praticamente concertano fra loro. Cioè lei vede che la riforma forense viene gestita dagli ordini professionali del Ministero della Giustizia. Tutte le altre componenti del mercato restano esclusi da questo meccanismo, per cui corporativismo e concertazione coincidono. Il cittadino è costretto a pagare, a dare per scontata la professionalità garantita dagli ordini, a subire le tariffe che non sono altro che il minimo tariffario in vigore nella pubblica amministrazione, e quindi il cittadino, che è quello che poi alla fine paga, è condannato a essere fuori, non ci sono le altre componenti del mercato. Concentrarlo fra loro come vessare il cittadino e le imprese. Ecco, ma come si potrebbe garantire comunque il cittadino che chi si definisce medico sia veramente un medico, che abbia i requisiti professionali per farlo, che chi fa l'avvocato sia veramente un avvocato, che abbia i requisiti professionali per esercitare la professione? Forse gli ordini servono anche a questo. No, gli ordini originariamente servivano anche a questo, ma nel sistema della Camera delle Corporazioni erano presenti tutti gli ordini professionali quando si stabiliva una legge. Ora invece sono l'ordine interessato e il potere statale. Per garantire la professionalità, gli ordini non servono, perché praticamente la professionalità potrebbe essere garantita individuando parametri oggettivi con i minimi che ogni professionista dovrebbe possedere per poter esercitare una professione. Cioè qui l'ordine trascura il mercato, che è il suo referente naturale. Lei consideri solo una cosa, che per assistere un cittadino davanti al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA non è necessario essere iscritti in alcun albo, mentre oggi i professionisti italiani scioperano perché vogliono che il cittadino sia accompagnato da un professionista iscritto all'albo davanti al mediatore. Ecco, io non posso che essere d'accordo con lei. Tra l'altro, da giornalista, io quando ho avuto l'occasione mi sono sempre espresso per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti, perché il giornalismo soprattutto è qualcosa che non dovrebbe essere ingabbiato, dovrebbe far parte della libertà di pensiero, di espressione, e chiunque dovrebbe poter fare il giornalista. Poi se riesce più o meno bene lo decide il mercato. Però ecco, quanto è bloccata la stampa, che per aprire un giornale è necessario un direttore responsabile uscito all'albo. Certo. È un blocco. Ecco, però un giornalista che fa male il suo mestiere, non fa in fondo troppi danni, prima o poi si vede. Un avvocato, o soprattutto un medico che fa male il suo mestiere, può deciderlo in mercato, però poi i danni chi li paga? I danni li paga personalmente. E quindi ci vuole una responsabilità diretta. C'è una responsabilità personale, cioè il problema va risolto al contrario, cioè ci devono essere le corporazioni devono essere aperte al mercato, devono essere tante associazioni in concorrenza fra loro che si contendono i clienti sulla professionalità. Tu sei iscritto all'albo se sei bravo, non che tu ti iscrivi all'albo, dopodiché io controllo la tua deontologia, la tua capacità professionale, la tua etica personale. E tutte queste vicende che non c'entrano niente. Lei pensi soltanto che la Grecia ha abolito le tariffe, cioè mentre noi ci arrocchiamo a difendere le tariffe perché praticamente garantiscono l'indipendenza del professionista, invece le tariffe non garantiscono niente, perché il cittadino si sentirebbe molto più tranquillo e molto più tutelato se potesse coinvolgere il professionista nell'esito del giudizio. Ecco, e io credo che ci sarebbero anche un minor numero di cause. Ecco, allo stesso modo il divieto di pubblicità per gli ordini professionali è qualcosa che limita il mercato, lei afferma. Come fa un giovane ad emergere se non può fare pubblicità? Non può abbassare il prezzo e non può fare le società per reperire clienti. Perché un cliente dovrebbe andare da un giovane quando per lo stesso prezzo può andare da un altro avvocato con maggiore esperienza? Io poi personalmente penso una cosa, che io mi sentirei offeso se il mio prezzo dovesse essere stabilito una tariffa, anche perché poi che interesse ho ad aggiornarmi se non posso aumentare i prezzi o non posso diminuirli a mio piacimento? E il prezzo non c'entra con l'etica, il prezzo è soltanto un mezzo per costringere i giovani a stare in fila dietro. E poi se arriva appunto, senza abbattere il prezzo, perché devo andare da un giovane? Non ho alcun interesse. E né io ho interesse ad aggiornarmi. Certo, e poi si arriva a un'alleanza un po' perversa, per cui l'inefficienza della giustizia fa comodo sia ai giudici sia agli avvocati, ma non fa comodo sicuramente ai cittadini. No, calma. Questo può dare l'idea, cioè come sono formulate le tariffe, dà l'idea che la lentezza della giustizia e un maggior numero di cause garantisca un maggiore guadagno all'avvocato. Infatti l'avvocato non è molto ben voluto dalla gente, perché viene considerato una via di mezzo fra la gente che chiede giustizia e lo Stato che non è in grado di darla. Il problema dell'avvocatura è quello che, secondo me, deve rinunciare e deve battersi per non avere un ruolo istituzionale, per essere un'entità privata a discrezione libera. Solo in quel caso l'avvocatura può, attraverso il diritto, riequilibrare gli assetti sociali, può difendere effettivamente il cittadino contro lo Stato. L'avvocatura deve essere un contropotere rispetto all'esecutivo, grazie, non un servo del potere politico. Grazie mille, Avvocato Cappello, perché sua difesa del mercato, della libertà e della prospettiva di, anche in fondo, di una crescita, di un'economia che serva ai consumatori, ai cittadini e quindi anche a tutti, cosa che ha fatto nel suo libro Il Cappio, perché gli ordini professionali soffocano l'economia italiana, di Riccardo Cappello, edito da Rubettino. Sono in questo libro 78 pagine per 20 euro. Abbiamo parlato anche del libro di Antonio Catricalà, Zavorre d'Italia, anch'esso edito da Rubettino, 72 pagine per 12 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Peter Bascapè in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie.